Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane e ogni giovedì dalle ore 20, 20 e 10 circa fino alle 21:30. Andiamo con quella che è la sigla di questa trasmissione, ovvero Retribution dei Behind Enemy Lines. Ecco, questa era la sigla Retribution dei Behind Enemy Lines, sigla di questo programma che è iniziato pochi minuti fa, che è Zardins Magnetics in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane come ogni giovedì. E adesso andiamo all'ascolto di un brano, anche due, di questa band. Loro sono i Link. Stiamo ascoltando i Link in sottofondo, che è una band belga che ho annunciato prima e che comunque fanno parte di questo split uscito nel 2017, e assieme ad una band francese, i Geranium. E buonasera anche di bande me, benvenuti a Zardins Magnetics, qui agli studios di Via Volturno a Udine, in Friul, sui 90 MHz della modulazione di frequenza, oppure sul, se ci state ascoltando da fuori Friuli, in streaming, in diretta. Ci sono anch'io questa sera a aiutare un po' qui a presentare i vari contributi che ci saranno questa sera a Zardins Magnetics. Sono tutti contributi di approfondimento e controinformazione, diciamo promossi dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione del Friuli, Venezia Giulia, e della Venezia Giulia. E bando alle ciance, diciamo subito che questa sera partiremo appunto con un ricordo preparato da una compagna un ricordo della donna immigrata che appunto già 9 anni fa veniva assassinata dalla repressione di Stato nell'ufficio immigrazione della questura, nell'ufficio immigrazione di Opicina, diciamo da parte di funzionari della questura di Trieste, ovvero Alina. E poi, diciamo, dopo questo intervento qui, il primo intervento, ci saranno altri approfondimenti che vi andrò a così semplicemente presentare mano a mano. Diciamo subito solo gli argomenti, diciamo i titoli sono riguardano il CPR con tutte una serie di tematiche e problematiche connesse, e un paio di interventi invece sulla repressione, di aggiornamento sulla repressione e su iniziative che verranno fatte, diciamo, in solidarietà ai palestinesi. Possiamo andare con il contributo su Alina. Un saluto a tutte le compagne e i compagni in ascolto di Gardens Magnetics, anche da parte mia. Stasera, nel mio piccolo contributo, vorrei ricordare Alina Bonar-Diaciuk, giovane donna ucraina che è morta ammazzata nel commissariato di polizia di Opicina a Trieste il 16 aprile 2012. Che cosa è successo? Questa giovane donna è stata trattenuta presso il commissariato di polizia di Opicina in maniera arbitraria, è stata trattenuta, non si sa che cosa le è stato detto e quali sono state le minacce che ha subito. Sta di fatto che dopo questi 3 giorni di isolamento in una stanza, Alina si è impiccata con il cordino della sua felpa, si è impiccata e sotto gli occhi della telecamera di sorveglianza. Nonostante questo, nessuno le ha prestato aiuto e soccorso, e quindi appunto questo è stato un, per quanto ci riguarda, un suicidio indotto dalla polizia. La dichiarazione ufficiale della morte infatti è suicidio. I poliziotti indagati vengono assolti con la formula: il fatto non sussiste. Per lo Stato la morte di una donna immigrata non vale nulla. Il Ministero degli Interni aveva offerto 150.000 euro alla famiglia di Alina. Nessun chiarimento a distanza di 9 anni su cosa sia successo nel commissariato. Alina però non era stata l'unica ad aver subito un vero e proprio sequestro di persona in commissariato con questo fermo illegale, ma sembra fosse una prassi abituale, appunto, prelevare dalla strada persone migranti e portarle in commissariato a Opicina e trattenerle arbitrariamente. Si parla di centinaia di persone che hanno subito questo trattamento e per fortuna non hanno fatto la fine che ha fatto Alina. Che cosa succede però? Oltre a per noi è stato importante ricordare con un manifesto che titola Basta morti di Stato, un manifesto che è stato diffuso sia a Trieste che a Udine, è stato importante ricordare questa persona, una persona che altrimenti rimane, come spesso accade, senza nome, senza identità, una persona appunto ammazzata dallo Stato. È stato importante però questo ricordo anche per non dimenticare e far sì che non si dimentichi quello che succede alle forze dell'ordine che riservano questi trattamenti alle persone che cadono nelle loro grinfie. Parliamo del capo dell'ufficio immigrazione Carlo Baffi, l'allora capo dell'ufficio immigrazione Carlo Baffi, il quale ha fatto carriera intanto ricordiamo che questo figuro aveva scritto così, diciamo, con attraverso uno scherzo macabro, ufficio epurazione al posto di ufficio immigrazione presso il commissariato di Opicina. Inoltre ricordiamo che questo figuro è un conclamato fascista, in quanto aveva il busto del Duce nel suo ufficio, quindi non lo diffamiamo dicendo questo, era la sua ideologia è questa e il suo idolo è il Duce. Allora dicevo, il fascista allora capo dell'ufficio immigrazione Carlo Baffi ha fatto carriera, non solo è rimasto vicequestore, ma è stato pure designato responsabile dei dati personali per la questura, perché appunto una persona così affidabile deve manovrare e manipolare un sacco di dati, no? Per la questura. I poliziotti e i dirigenti della questura di Trieste, accusati di sequestro di persona e omicidio colposo, sono stati tutti assolti. Per l'allora questore Padulano, i poliziotti coinvolti avevano fatto il loro dovere e obbedito agli ordini. Questi fatti ci ricordano le carriere dei torturatori della caserma Bolzaneto di Genova per i fatti dell'aprile 2001. Quello che noi sappiamo è che Alina è una delle tante persone che muoiono nelle mani dello Stato. E ci ricordano che non soltanto persone straniere fanno la sua fine. Possiamo fare dei nomi: Federico Aldrovandi, Giuseppe Uva, Stefano Frapporti, Stefano Cucchi, la lista è molto lunga. Il confine è un tritacarne. Lo Stato ed i padroni lo utilizzano per i loro scopi, sia a livello di sicurezza che di sfruttamento. Per noi ricordare la morte di Alina vuol dire ricordare che tutt'oggi migliaia di persone vengono incastrate su questo confine, con le loro sofferenze e i loro lutti. Lottare oggi contro i confini, contro le galere, vuol dire aspirare ad una vita senza documenti, senza eserciti, senza stati e senza gli interessi dei pochi sui molti. Assemblea contro il carcere e la repressione. But I don't wanna plant a mechanic virus and erase the memory of machines that maintain this capitalist dynasty. And yes, I recognize the irony. The system I oppose, of course, is a luxury. I'm biting the hand that feeds. That's exactly why privileged fucks like me should feel tired of E questi sono i Propagandi, band canadese, e questo era il loro album datato 1996, Less Talk More Rock. Sono più di 2 anni che Mauro passa da una struttura all'altra, da una pillola all'altra, da un pacchetto di Winston Blue all'altro. Mauro è un treno in corsa che non fa più fermate. Mauro è un partigiano. A Bader serve un lavoro per rinnovare il suo pezzo di carta, ma senza la carta non danno il lavoro e senza il lavoro Bader non c'è. Bader è arrivato bambino, dal mare. Bader, che oggi ha più di 20 anni ed ha un figlio che per questo paese non sarà mai italiano. Bader è un partigiano. Osaka e Salvatore impastano malta e cemento, a chiamata, anzi, a passaggio di caporale. Osaka e Salvatore non sono, fino a quando diventano numeri, numeri per una statistica di fine anno sui morti in edilizia. Osaka e Salvatore sono stati partigiani. A Malinka piace quel mare che non ha mai visto. Se cresce a Polok, puoi soltanto immaginarlo. Malinka sogna il mare attraverso le reti di un CIE. Sono già passati 11 mesi, Malinka badante partigiana. Palen Giuseppe ha fatto la guerra, un po' di Grecia, un po' d'Africa, che non ricorda più così bene né dove, poi 2 anni nel campo di Dresda. Palen ripara biciclette, ma è stanco. Palen pensa a suo figlio che ha perso il lavoro e al figlio di suo figlio che ancora non ne ha trovato uno. Palen è stato ed è un partigiano. Il pulmino che a volte porta a scuola Rambo, Mikaila, Yelena, Sasha, Santino e Fiamma è un pulmino solo per loro. Arriva al campo di Corleto, ma sulla strada principale, non sulla sterrata alle 9 e riparte da scuola alle 12. Ed è un pulmino solo per loro, il pulmino dei Rom, dicono a scuola. A Yelena piace disegnare draghi. Mikaila vorrebbe fare una gita in collina o al mare, con i panini preparati prima. Santino raccoglie la neve fuori dalla baracca e ci scioglie polvere di caffè. Rambo, Mikaila, Yelena, Sasha, Santino e Fiamma sono partigiane e partigiani. I capelli di Anjum sono folti, di un nero lucente, e da quando non porta l'hijab le piace sentirsi osservata. Non l'ammette, ma sorride. Anjum è donna violata, moglie violata, figlia violata. Anjum, nascosta dal mondo, è partigiana. Rumesh scrive sui muri di Como, ma allo sbirro parte un colpo, un iriflesso ed accidentale pressione del grilletto, sentenza la corte. Rumesh, semiparalizzato con disturbi alla vista, all'udito, è un partigiano, armato di bomboletta spray colorata. Nomi, indirizzi, ruoli, sedi, attività, connessioni tra NAR e istituzioni politiche nel quartiere romano di Val Melaina. O Melaina. Valerio è a terra, in casa, con un colpo di pistola alla schiena. Valerio in partigiano, Franco, riverso sul pavimento, esamine tra le proprie feci, così in una cella del carcere di Forlì. Cinismo, indifferenza, sprezzo della vita umana. Franco abbandonato da tutti tranne che dai suoi compagni di cella. Franco è stato un partigiano. Una valle che da quasi 30 anni resiste a un progetto di devastazione ambientale diventa il simbolo di una lotta che va oltre le non ragioni di un treno ad alta velocità, diventa il senso di una lotta oltre la valle, ed è una valle di partigiani. Prospero non sta a guardare, batte la via, ci prova non soltanto per sé, non soltanto da sé, e con gli altri e le altre, per quello in cui non ha mai smesso di credere, continua ad essere un partigiano, all'assalto del cielo. Questo era uno dei brani a parole, un testo, un contributo messo in un libretto che avevamo in precedenza, in un'altra puntata di Zernis Magnetics, già diciamo presentato velocemente, e che si chiama Contrasto visto per censura, appunto un'autoproduzione promossa da varie realtà, diciamo, del do it yourself, uscita da poco nel 2021, e che appunto ha l'obiettivo di far arrivare le più recenti realizzazioni in diciamo della band di punk HC Contrasto Hardcore, e far arrivare dentro le carceri, dove notoriamente ai compagni che lo richiedono, alle compagne che lo richiedono, evitando appunto la censura sui format che vengono respinti come non originali. L'ho fatta un po' lunga, ma magari di questo progetto dei Contrasto dovremo parlare ancora più avanti e meglio. E io ho solo letto quel testo che ho appunto trovato nel libretto come introduzione a un intervento sempre dell'Assemblea Permanente contro Carcere e Repressione, un intervento che va a sostenere molti e molte che a Trieste hanno cominciato a opporsi alla misura militare, anzi marziale, del coprifuoco. E siccome sono già cominciate ad arrivare le prime multe per queste violazioni, l'Assemblea Permanente contro Carcere e Repressione ha realizzato un volantino e lo ha diffuso in una delle ultime occasioni, e adesso il compagno vi dirà meglio, insomma vi approfondirà questo discorso e darà lettura del nostro volantino. Ultimamente, in più di una serata, qui a Trieste, si è deciso di compiere degli atti di ribellione collettiva rispetto al coprifuoco. Sì, coprifuoco, così è definito quel divieto che non ha nulla a che vedere con questioni di prevenzione sanitaria, ma che è il tipico provvedimento autoritario dei tempi di guerra: impedire alle persone di uscire nottetempo, in questo caso dopo le 10 di sera e fino alle 5 di mattina. Così si sono svolte delle passeggiate in centro città, ovviamente guardate a vista, per certi versi anche minacciate dalla polizia, che hanno saputo concretizzare un atto collettivo di ribellione rispetto a uno degli aspetti più odiosi della gestione autoritaria dell'emergenza sanitaria nel nostro paese. L'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione ha voluto intervenire anche con un volantino rispetto a chi ha fatto alle persone

sabato 8 maggio alle 10 in Largo Barriera a Trieste, il locale comitato per il boicottaggio, il disinvestimento e le sanzioni contro Israele, comitato BDS, organizza un presidio volantinaggio informativo sulla questione del modello israeliano sulla gestione dell'epidemia di Covid. Ora vi darò la lettura del testo che volantineremo quel giorno in piazza. Modello Israele? No grazie. Anche durante l'attuale epidemia di Covid-19, Israele ha confermato la sua natura discriminatoria e razzista, negando la distribuzione del vaccino ai palestinesi dei cosiddetti territori occupati e di Gaza. Eppure i giornali e le televisioni italiane hanno, in queste settimane, decantato le lodi del modello israeliano rispetto alla trattazione dell'epidemia. Un modello che non sussiste in realtà a livello sanitario. Israele ha dovuto applicare 2 lockdown, contando circa 6.300 morti su 8.800.000 abitanti, secondo i dati aggiornati ad aprile. Se parliamo di modello dovremmo guardare altrove. Cuba, pur sotto embargo, su 11.300.000 abitanti ha avuto meno di 600 morti. L'unico modello che Israele può vantare è quello militare, essendo uno dei paesi più militarizzati al mondo, con un quinto del bilancio statale destinato al settore bellico. E non potrebbe essere che così, vista la guerra permanente che conduce contro il popolo palestinese. L'attuale disastro sanitario italiano è figlio proprio dell'adozione di questo modello. Se pensiamo che ogni giorno il nostro paese spende 70 milioni in campo militare e contemporaneamente ha tagliato 37 miliardi alla sanità negli ultimi 10 anni. E in tutto ciò pesano anche i rapporti con Israele, in base all'accordo di collaborazione militare del 2005. Si vede ad esempio l'accordo militare italo-israeliano del 22 settembre 2020, valore complessivo 700 milioni di dollari, di cui 350 a carico dell'Italia, che ha acquisito piattaforme per l'aeronautica militare da parte di Israele. Con 350 milioni si sarebbero potute acquistare circa 5.800 postazioni di terapia intensiva. Ogni giorno in Palestina Israele ruba la terra dei palestinesi, imprigiona, uccide. Lo Stato italiano si sta rendendo complice del genocidio in Palestina. Basta collaborare militarmente con Israele. Non vogliamo il modello israeliano. Vogliamo che i soldi pubblici siano spesi per la sanità e per la vita, non per la morte e la guerra imperialista. Una delle cose che possiamo fare per contrastare questo modello militarista è quello del boicottaggio, come per anni si fece con il Sudafrica razzista. Nei supermercati possiamo non acquistare gli alimenti, agrumi, frutta secca, datteri e prodotti per l'igiene del corpo, nelle farmacie i medicinali Teva, ma anche i prodotti delle aziende che collaborano a vario titolo con le istituzioni israeliane. In particolare, in questo periodo è in corso una campagna per il boicottaggio della compagnia assicuratrice AXA, che investe 6 milioni di dollari in 4 banche israeliane che finanziano la costruzione di insediamenti illegali, secondo il diritto internazionale, nei territori palestinesi occupati e ha rapporti finanziari con l'azienda israeliana produttrice di armi Elbit System attraverso Equitable Holdings. C'è un appello anche in rete. Noi in piazza chiederemo a tutti, a tutte, di recedere eventuali contratti di assicurazione con questa compagnia di assicurazione, proprio per praticare il boicottaggio. diciamo che iniziative come queste vogliono ricordare la realtà di quello che è il modello israeliano e le responsabilità dello Stato italiano sia in termini di collaborazione con Israele sia in termini di adozione di questo modello. Pensiamo appunto sul piano militare, sul piano della crescita smisurata della spesa militare. Sul volantino ricordiamo anche cosa sta significando la pulizia etnica che Israele sta compiendo a danno dei palestinesi sulla loro terra. Dal 1948, cioè dalla fondazione di Israele, i palestinesi hanno perso il 78% del loro territorio e oltre 750.000 persone sono state cacciate dalle loro case. Ogni giorno, per costruire gli insediamenti, l'esercito israeliano e i coloni demoliscono case, distruggono campi coltivati e attaccano la popolazione. Si sono installati 441.600 coloni in Cisgiordania e 220.000 a Gerusalemme Est. Ecco, AXA è complice. Ricordo che AXA ha una sede a Trieste in Piazza Vico e ricordo a tutti e a tutte l'appuntamento in Largo Barriera alle 10 di mattina sabato 8 maggio a Trieste per promuovere il boicottaggio del regime colonialista israeliano. Ciao a tutti e a tutte, nei minuti che seguono tenterò di portare qualche aggiornamento rispetto alla situazione del centro di permanenza per i rimpatri di Gradisca di Sonzo, ed anche qualche riflessione circa la sua attuale gestione, con anche qualche forse importante novità che attualmente la riguarda. I compagni e le compagne di Zardi Magnetics hanno già più volte affrontato temi e questioni relative non solo al CPR di Gradisca, ma anche agli altri CPR attivi in Italia, quindi non mi dilungherò molto, dirò solamente che il CPR Friulano è uno dei 10 attualmente attivi in Italia. In breve gli altri sono quello di Milano, quello di Torino, quello di Macomer in Sardegna, quello di Bari e quello di Brindisi in Puglia, quelli di Caltanissetta e di Trapani in Sicilia, quello di Palazzo San Gervasio in provincia di Potenza, Basilicata, e quello di Roma, zona Ponte Galeria, l'unico che al momento ospita tra l'altro anche una sezione femminile al suo interno. Le storie e le vicende del CPR di Gradisca sono relativamente note nel nostro territorio, o almeno lo sono per alcuni e per alcune. Tuttavia, a beneficio della memoria un po' di tutti, ricorderò che il primo campo di concentramento per persone senza documenti in regola in Friuli fa la sua comparsa sempre a Gradisca nel sito dell'ex caserma Polonio nell'anno 2000 con il nome di CPT, come allora sulla scorta della legge turco-napoletana del 1998 venivano chiamati questi campi, CPT, centri di permanenza temporanea. Con il pacchetto sicurezza del 2008 mutano nome in CIE, centri di identificazione ed espulsione, ed è con questo nome che nel 2013 il campo di concentramento di Gradisca trova la sua chiusura, purtroppo tocca dire solo temporanea, in seguito a una potente ondata di rivolte interne che ne determinano il non più utilizzo, la non più agibilità, come si suol dire. Durante queste rivolte morirà anche un uomo, ufficialmente cadendo dal tetto della struttura, e dopo 8 mesi di coma. La struttura riapre quindi nel dicembre 2019, dopo i lavori di ripristino svolti dal genio militare, con il nome di CPR, appunto, acronimo che deriva dalla legge Minniti Orlando del 2017. Ultimo governo Renzi, ultimo governo a guida PD, come a guida PD e anche la da allora come oggi è la giunta della piccola cittadina di Gradisca, su cui dirò magari qualcosa fra poco. E nel giro di neanche 8 mesi sono 2 le persone che trovano la morte all'interno del CPR. Il primo di questi, dopo neanche un mese dalla sua riapertura, il 18 gennaio 2020, un uomo proveniente dalla Georgia, Bakhtan Genukidze, muore nell'ospedale di Gorizia. Stando alle varie testimonianze degli altri reclusi che poterono assistere ai fatti immediatamente precedenti, muore dopo un violento pestaggio ad opera di un folto gruppo di guardie intervenuta antisommossa all'interno del CPR. Testimoni questi che verranno rimpatriati molto in fretta nei giorni immediatamente successivi alla morte dell'uomo, quando la stampa di regime locale diffonde la versione poliziesca della morte per edema polmonare. Una versione che ci rimanda purtroppo a precedenti ben noti, uno su tutti quello di Stefano Cucchi, dopo la morte del quale, in seguito come noto ormai a ripetuti pestaggi dei suoi carcerieri, fu diffusa la stessa versione, quella dell'edema polmonare. Nel luglio 2020 invece sarà un uomo albanese, Orge Sturia, a morire per una presunta overdose di psicofarmaci. stando al recentemente pubblicato rapporto sulle visite effettuate nei centri di permanenza per i rimpatri 2019-2020, a firma del noto garante nazionale dei diritti delle persone detenute, Mauro Palma, sono 5 gli uomini che hanno trovato la morte nei patri CPR tra giugno 2019 e luglio 2020. 2 sono quelli di cui ho brevemente accennato poco fa. Gli altri sono un uomo nigeriano che nel giugno 2019 muore nelle CPR di Brindisi, poi un uomo bengalese il mese dopo, nel luglio 2019, nel CPR di Torino, e poi un uomo tunisino, anche lui nel gennaio 2020, pochi giorni prima di Vakhtang Enukhidze, muore nel CPR di Caltanissetta, Pian del Lago. Attualmente nel CPR di Gradisca sembrano esserci 100 prigionieri. Le deportazioni hanno luogo prevalentemente verso la Tunisia e con cadenza bisettimanale. Avvengono per lo più dall'aeroporto di Palermo, ma sembra anche in una certa misura da Milano Malpensa. E il giorno 24 di aprile si è svolto un presidio a Gradisca, presidio contro tutti i CPR. Durante il pomeriggio si è riusciti a fare diversi passaggi sotto le mura del CPR che sorge abbastanza lontano dal centro cittadino, quasi in aperta campagna, e si è riusciti ad interagire con alcuni reclusi facendoci sentire da fuori. Le questioni legate all'esistenza dei CPR sono molteplici ed ognuna di esse probabilmente meriterebbe un lungo approfondimento a parte, che magari avremo modo di fare in altre occasioni. Tra di essi me ne vengono in mente due. Uno è sicuramente quello legato alla funzione effettiva di questi centri, ben al di là di quella che è la funzione diffusa della propaganda ufficiale, una funzione che li vede secondo me come ultimi anelli di una lunga catena di sfruttamento e ricattabilità, come delle punte molto vistose, molto appariscenti sia dal punto di vista fisico e materiale che da quello dell'immaginario, punte di una piramide dalla base molto molto più ampia, costruita su molti più livelli, con le radici ben salde nell'Africa subsahariana, nell'estremo oriente, nell'Asia centrale, territori da cui milioni di donne e di uomini muovono, scappano in fuga dalle guerre neocoloniali portate avanti dall'Occidente, da tremende dittature spesso sostenute, foraggiate ed armate da quegli stessi paesi occidentali che in quei paesi prelevano una quantità di risorse, oppure scappano da fame e carestie causate, aggravate, acuite dai cambiamenti climatici di cui l'Occidente capitalista è il principale responsabile. Flussi migratori che poi passano sì, a est per esempio attraverso la rotta balcanica fino a giungere alla cosiddetta frontiera orientale qui da noi in Friuli, oppure attraversano la Libia, dove centinaia di migliaia di persone sono rinchiuse nei campi di concentramento gestiti da mercenari con cui l'Italia ha stretto accordi ed ha aperto canali di finanziamento. In un discorso che vede in primo piano anche gli interessi della principale compagnia petrolifera italiana, l'ENI, in quei territori, come è abbastanza risaputo. Dopodiché vi sono gli hotspot dell'Italia meridionale, dopodiché vengono gli agrumeti, i campi di pomodori, i frutteti dell'Italia settentrionale, quelli del Piemonte, dell'Emilia Romagna, come del Veneto. E per alcuni ed alcune vi è poi il capolinea del CPR, in attesa forse di una deportazione forzata all'inizio di tutto quello che è stato il processo migratorio. E un altro ragionamento che a me sta particolarmente a cuore è quello della parallelismo, non della sovrapposizione ma della continuità del parallelismo fra questo tipo di centri, i CPR e le normali carceri, quelle per persone con i documenti in regola, se mi si può passare questa espressione, le carceri diffuse in ogni capoluogo di provincia d'Italia, dove nel marzo scorso, in seguito a rivolte sviluppatesi in oltre 30 carceri, sono morti 14 detenuti sotto le botte o sotto gli spari delle guardie accorse per sedare queste rivolte, che si erano scatenate in seguito alla diffusione repentina del Covid all'interno delle carceri stesse, portato dai secondini e dagli operatori che a vario titolo frequentano quei luoghi, e all'annuncio della sospensione dei colloqui con i familiari. La maggior parte di quelle morti furono a Modena, anche se anche qui da noi ce ne sono state almeno due: una al carcere di Via Spalato ad Udine, dove Ziad, un prigioniero di 22 anni, è morto il 15 marzo del 2020, e poi anche Nicola Buro al carcere del Croneo di Trieste, mi sembra nel mese di luglio del 2020, entrambi per cause legate a dosi eccessive, a somministrazioni eccessive di metadone e psicofarmaci, la stessa versione che è stata diffusa immediatamente dopo i 14 morti delle rivolte di marzo, la morte per overdose, no? Da psicofarmaci e da metadone. Poi insomma, come è stato appurato, la verità è stata ben diversa, o almeno lo è stata in parte. I CPR in Italia dipendono dal Ministero dell'Interno, la sorveglianza interna è affidata alle forze dell'ordine, quindi polizia, carabinieri, guardia di finanza, spesso anche l'esercito, come nel caso di Gradisca, mentre la responsabilità è in capo alle locali prefetture. Per esempio la questura goriziana ha una sua sede staccata all'interno del CPR gradiscano. Riguardo la prefettura invece c'è stato di recente un cambio di guida con il nuovo prefetto Raffaele Ricciardi, già viceprefetto a Padova, presunto esperto in fatto di tematiche migratorie. È uno che ha fatto il suo esordio visitando il CPR, esortando tutti a non dimenticare che nonostante tutto all'interno ci sono delle persone che devono essere un po' speciali, tuttavia essendo deportabili da un momento all'altro e potendo essere soggette a pestaggi da parte delle forze dell'ordine e a somministrazione di psicofarmaci anche non richiesta in maniera del tutto arbitraria, quella che comunque veniva definita ordinaria amministrazione dall'ex prefetto Marchesiello, ora ad Udine, dove anche lui si fa forte della precedente esperienza accumulata in fatto di tematiche migratorie, portando avanti quella che comunque era già la linea di prefettura e questura udinesi, svolgendo la sua attività a suon di retate, specialmente nella zona intorno alla stazione dei treni, in quella via Roma, che è la zona molto probabilmente a densità migratoria e a caratterizzazione multietnica più elevata di tutta la città. Un'altra figura di un certo rilievo è quella del giudice di pace di Gorizia, di nome Giuseppe Lallicata, uno che normalmente fa tutto quel che può per prolungare la permanenza all'interno del CPR anche di coloro che avrebbero buone ragioni per essere liberati, o alternativamente fa tutto ciò che è in suo potere per favorire l'espulsione anche di quelli che da un punto di vista legale avrebbero buoni motivi per almeno temporaneamente ritardarla. Un'altra figura di un certo rilievo è quella della garante comunale per le persone detenute, caso a quel che ci risulta abbastanza unico in Italia, in quanto specificatamente dedicato al CPR, una figura fortemente voluta dalla sindaca DEM della cittadina, Linda Tomasinsic. E la figura è ricoperta dalla signora Giovanna Corbatto, che svolge il suo ruolo, la sua funzione in una maniera possibilmente ancora più inutile e ininfluente rispetto al suo omonimo nazionale, arrivando addirittura a concordare con la prefettura le sue visite all'interno del CPR, come avvenne nel caso della morte di Orgesturia nel luglio 2020, quando la notizia della sua visita alla struttura venne diffusa da tutti i giornali locali diversi giorni prima che questa avvenisse, avvenuta comunque diversi giorni dopo la morte dell'uomo. La quota più grossa di responsabilità, di complicità nell'effettivo funzionamento della struttura ce l'ha, almeno a modo di vedere di chi parla, la cooperativa Edeco, ex Edeco anzi, ora di recente ha cambiato nome in Tuxo, una cooperativa con sede in via Peschiera 17 a Battaglia Terme, in provincia di Padova. Cooperativa che si aggiudica la gestione del centro nel 2019, quando era già coinvolta nel processo cosiddetto business dell'accoglienza presso il Tribunale di Padova, un processo che vedeva imputati gli ex capoccia della cooperativa, nella fattispecie l'ex presidente Simone Porile, la moglie Sara Felpati e Gaetano Battocchio, in qualità appunto di vertici di quella che all'epoca si chiamava cooperativa Ecofficine. Assieme a loro sono tuttora coinvolti nel processo anche ex funzionari della prefettura padovana, una è Tiziana Quintario, l'ex incaricata della gestione dei migranti e della predisposizione di bandi e contratti, l'ex viceprefetto di Padova Pasquale Aversa e il vicario Alessandro Sallusto. I capi di imputazione sono legati a quelli che erano a quella che era la gestione degli SPRAR nella provincia di Padova e nella fattispecie si tratta di somministrazione di cibo scarso ed avariato, servizi igienici scadenti, persone sane tenute con altre malate di varicella e scabbia, maltrattamenti, documenti falsi ai comuni per aggiudicarsi appunto gli SPRAR, flusso di informazioni riservate su ispezioni sanitarie, controlli da parte dei carabinieri, flussi di informazioni provenienti dalla prefettura padovana, bandi scritti su misura poi in effetti vinti. Questi illeciti configurano tutta una serie di reati che per quello che ci risulta vanno a titolo informativo dalla turbativa d'asta, frode nelle forniture pubbliche, truffa, concussione per induzione, rivelazione di segreti d'ufficio e falso ideologico, per quello che può valere da un punto di vista penale. La cooperativa tuttavia era a processo anche presso il Tribunale di Venezia, insieme anche lì all'ex prefetto di Venezia Domenico Cuttaia, l'allora vicario Vito Cusumano e la vice Paola Spatuzza, per i fatti riguardanti il tristemente noto campo di Conetta in provincia di Venezia, dove trovò la morte nel 2017 Sandrine Bakayoko, una donna di 25 anni che fu colta da malori ed a causa di una serie di negligenze e ritardi da parte del personale della cooperativa nel chiamare i soccorsi, trovò appunto la morte nell'ex campo militare di Conetta. Quindi un curriculum di tutto rispetto, quello dell'ex cooperativa Edeco, che nel 2019 comunque concorre al bando per l'assegnazione della gestione del cipere di Gradisca, arriva quinta in graduatoria, ma le prime quattro classificate per una serie di carenze di lacune nella documentazione presentata vengono estromesse e la prefettura a guida Massimo Marchesiello non può far altro che assegnare l'appalto ad Edeco. Ora a noi non piace ragionare in malafede, quindi siamo portati a pensare che si sia effettivamente meritata l'assegnazione, anche se i precedenti non fanno pensare troppo bene. Gli ultimi sviluppi vedono Edeco in liquidazione nel 2020, la vedono estromessa dall'elenco delle cooperative della Regione Veneto e tuttavia la vedono partecipare al nuovo bando di aggiudicazione dello SPRAR della città di Padova con nome di Tuxo. Tuxo come Edeco è come si evince da tuxo.org. È attiva in tre principali macro aree: uno è il turismo sociale e religioso, un altro è i servizi residenziali e non residenziali a persone svantaggiate e un altro è il settore dell'infanzia, in quanto essa gestisce con certezza, per quello che ne sappiamo, almeno tre asili nido in provincia di Padova, uno a Villa Estense, uno a Megliadino San Vitale e l'ultimo a Lozzo a Testino. Ecco dunque cosa si cela dietro le parole accoglienza, carità, crescita individuale, benessere, sviluppo armonico per bambine e bambine. dietro i concetti che Tuxo usa per presentarsi come in realtà l'avanguardia nella gestione delle scuole per l'infanzia, c'era una realtà che andrebbe conosciuta, una realtà di gestione attiva in uno dei moderni campi di concentramento italiani, dove hanno già trovato la morte due persone, tre se si include la passata gestione del campo di Conetta. E cosa dire, le recenti inchieste per associazione a delinquere che hanno coinvolto diverse realtà di lotta in tutta Italia, anche a distanza di diverso tempo dai fatti contestati, rispetto all'attività passata e presente di questa cricca di affaristi che si chiama Tuxo, che adesso si chiama Tuxo, e, beh, fanno abbastanza ridere, insomma, ecco. E, infine, noi come sempre ci auguriamo che tutti i CPR, come tutte le carceri, possano bruciare, e con esse andare in fumo anche gli interessi di tutte quelle persone, quegli enti gestori, quelle cooperative che dal funzionamento e dallo svolgimento delle loro attività all'interno di queste strutture ricavano immensi profitti, immensi guadagni. Che dire, sono le 21:26 circa, siamo veramente agli sgoccioli. Niente, a me veniva in mente questo riflesso mentre il compagno parlava di, appunto, di come vengono ribaltate le parole, appunto, accoglienza, benessere, sviluppo. Io prima parlavo di partigiani, oggi per caso ero davanti a un telegiornale nazionale e ho sentito definire partigiano il generale dei carabinieri Galvaligi, che fu diciamo eliminato nel 1981, e questa è un altro, per me un altro esempio di come si ribaltano così con uno schiocco delle dita le parole. Veramente agli sgoccioli, dagli studi di Radio Onde Furlane di Udine, e questa era Zardins Magnetics, siamo ai contatti, i contatti che ormai tutti conoscono, anche i muri. C'è una mail che è liberetutti@autistiche.org ed è corrisponde all'Assemblea Permanente contro Carcere e Repressione. Un indirizzo di posta, diciamo, cartacea per chi si trova, per le persone in ascolto che si trovano in ristrette, si trovano, diciamo, con la restrizione delle proprie libertà, ed è Associazione Senza Sbarre, casella postale 129-129 34121 Trieste. Lo ripeto ancora una volta, Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 34121 Trieste. E qualora voi non foste impossibilitati ad ascoltarci in diretta, c'è sempre la possibilità del podcast, ovvero di riascoltare la registrazione, il file. Per fare questo dovete andare in un blog che è dentro la struttura di autistici, che si chiamano No Blogs, ed è l'indirizzo preciso, il link preciso è zardinsmagneticsradio.noblogs.org e lì trovate di volta in volta le puntate caricate, insomma da stasera fra qualche giorno lo troverete. E per quanto mi riguarda è tutto, ci sentiamo prossimamente, vi salutiamo bene ancora, per fra qualche minuto Zardins Magnetics si conclude. Bene, siamo giunti veramente al termine di questa trasmissione che è Zardins Magnetics, che si conclude ora alle 21.30, diretta radiofonica dagli studi di Radio Onde Furlane. E volevo solo ricordare un po' i brani che abbiamo ascoltato in questi ultimi interventi, che sono tutti stati estrapolati da questa compilation datata 2014, che si intitola Adios Prison. E i brani, un po', vabbè, essendo una compilation, benefit, ci sono varie band. Ovviamente io vi leggo solo il nome delle band, ovvero A Testa Bassa, poi i Distemper, i Gandhi e Kamikaze, i Niet, e quelli che stiamo ascoltando ora in sottofondo sono la Mantide. E ovviamente ciao a tutti, al prossimo giovedì.